Perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Deficit francese al 4,4%, sopra il 3% fino al 2017. Il governo rifiuta di adottare nuove misure di austerità. Il ministro delle finanze Sapin: non chiederemo altri sforzi ai francesi. Il Jobs Act arriva in Senato. Renzi pronto alla fiducia per chiudere entro il vertice europeo sul lavoro dell'8 ottobre. Festa nazionale in Cina e ad Hong Kong i manifestanti tengono duro. La protesta degli ombrelli oggi sotto una fitta pioggia. Lampedusa ricorda i 368 migranti morti nel naufragio di un anno fa. Stamattina il Papa ha incontrato i sopravvissuti e i familiari delle vittime. La crisi economica spinge gli italiani a fare sempre meno figli, lo dice un'indagine Censis. Sull'eterologa il nostro paese è diviso, a favore il 40%. La strage di Novi Ligure diventa un film in uscita la prossima settimana. Sul grande schermo il piano folle di Eric ed Omar. In arrivo una miniserie anche sull'inchiesta su Yara. Buongiorno, buongiorno da Maria Piera Ceci, benvenuti a questa nuova edizione di Effetto Giorno. In primo piano il dibattito europeo su austerità e flessibilità sui conti, un argomento che sta molto al cuore, come sapete, al premier italiano Matteo Renzi, un argomento che vede questa mattina protagonista la Francia. Serietà sì, austerità no. Con questo slogan, ribadito ancora stamattina dal ministro delle finanze Michel Sapin durante la presentazione della finanziaria 2015, la Francia spera di riuscire a strappare a Bruxelles e a Berlino il via libera all'ennesimo rinvio degli obiettivi di riduzione del deficit, il terzo in sei anni. Nel 2015 sarà al 4,3% dopo il 4,4% di quest'anno e il ritorno al di sotto del 3% è previsto solo per il 2017, con due anni di ritardo. Mentre il debito, che ha appena superato la soglia simbolica dei 2.000 miliardi, continua a salire verso il 98% e la spesa pubblica diminuisce di pochissimo, rimanendo al di sopra del 56%. Il governo chiama in causa le circostanze eccezionali previste dai trattati, sottolineando il permanere di una crescita debole, 0,4% quest'anno e 1% il prossimo, dopo due anni allo 0,3%, e di una bassa inflazione che penalizza le entrate. Il problema è che rimane molto lento anche il calo del deficit strutturale, calcolato al netto degli effetti congiunturali, 2,4% quest'anno e 2,2% nel 2015. E questo, in attesa delle tante annunciate riforme non ancora realizzate, sarà davvero difficile spiegarlo alla Commissione e alla cancelliera Angela Merkel. È molto probabile che alla fine verrà trovato un accordo, ma la seconda economia europea rimane un malato grave, da curare con urgenza. Marco Mussanè, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi. Questa dunque la posizione francese nel giorno in cui arriva un nuovo dato europeo brutto sull'inflazione, brutto perché basso, più 0,3% annuo, in realtà un più 0,29%, ma anche perché segnala a settembre un peggioramento generale della situazione in Eurolandia. Salutiamo il collega del Sole 24 Ore, Dino Pesole, buongiorno. Buongiorno Dino. Allora, oggi la Francia, come abbiamo sentito, ieri le difficoltà invece emerse sull'Italia con il pareggio di bilancio che slitta al 2017, con Padoan che parla di quadro deteriorato. Con te vorrei commentare peraltro, pochissimi minuti fa la Commissione europea, l'Europa ha in qualche modo commentato questi dati, valuteremo il progetto di legge di stabilità alla luce degli impegni presi nelle raccomandazioni, la nostra posizione è che gli impegni vanno rispettati, questo ha detto il portavoce del commissario agli affari economici Katainen, così ha risposto a chi gli chiede appunto l'opinione di Bruxelles all'annuncio italiano del rinvio del pareggio. Oggi poi i dati anche francesi, ecco come possiamo leggere alla luce di questi due avvenimenti di ieri e di oggi, che cosa potrebbe succedere a questo punto? Quale potrebbe essere il giudizio di Bruxelles? Dino, non si sa dove tu sia perché non si sente assolutamente nulla. A questo punto ti richiamiamo perché davvero non si sente nulla e io nel frattempo sentirei Elisabetta Fiorito da Roma, perché, argomento peraltro strettamente connesso, oggi il Jobs Act inizia il suo percorso parlamentare al Senato. Renzi punta al via libera entro l'8 ottobre, giorno del vertice europeo, e sarebbe pronto anche a porre la fiducia al Senato. Ebbene, l'occupazione nelle grandi imprese, questo è un dato di questa mattina, luglio, registra un calo dello 0,8% al lordo dei dipendenti in cassa integrazione e dello 0,5% al netto invece su base annua. Questi i dati Istat di giornata. Istat che spiega che l'analisi riguarda le aziende con almeno 500 dipendenti. Allora, Elisabetta Fiorito, abbiamo detto oggi dunque il Jobs Act è in Senato. Sì, ecco, appunto, è iniziata la discussione sul Jobs Act nell'aula del Senato. Il Premier Matteo Renzi punta la fiducia per recuperare i voti della minoranza. Il primo sì a questo punto dovrebbe arrivare entro l'8 ottobre affinché il Premier possa portare al vertice europeo il risultato. E se l'ipotesi fiducia dovesse passare, il fronte del no del Partito Democratico dovrebbe uscire dall'aula per dimostrare che non vuol far cadere il governo. Anche proprio un messaggio di chiarezza è arrivato da uno dei dissidenti come Felice Casson, cioè la possibilità di un accordo. Nessuno di noi, dice Casson, ha intenzione di creare problemi alla vita del governo. Pippo Civati inoltre spiega: se l'articolo 18 non viene abolito nel Jobs Act va bene. E invece c'è sempre un fronte del no, che è quello del sindacato della CGIL, perché per Susanna Camusso l'articolo 18 non si deve toccare, gli interventi della riforma Fornero sono stati errati, hanno ridotto le tutele dei lavoratori e non hanno portato alcuna efficacia. Da parte di Forza Italia invece c'è prudenza dopo i cambiamenti attuati dalla direzione PD appunto sulla riforma del lavoro. Per Renato Brunetta c'è un controordine compagni, Renzi è peggio della Fornero, mentre per Raffaele Fitto Forza Italia si deve battere sui loro emendamenti. A te Piera. Grazie ad Elisabetta Fiorito. Sentivamo in apertura dunque dei dati in arrivo dalla Francia, ieri invece quelli arrivati sull'Italia. E riproviamo a sentire il nostro Dino Pesole. Buongiorno Dino. Buongiorno, mi ecco, sentite? Finalmente, bene. Ti sentiamo bene. Dicevamo due paesi a questo punto, i dati di ieri, i dati di oggi. Quale potrebbe essere a questo punto la reazione di Bruxelles? Ma c'è da chiedersi in primo luogo che senso logico abbia quando le due economie, la Germania no, ma anche la Germania soffre, comunque cioè Francia e Italia sono in tale difficoltà, continuare a ragionare in termini di rigida disciplina di bilancio. Comunque le reazioni di Bruxelles al momento saranno interlocutorie, perché la Commissione sta per scadere, quindi la trattativa dovrà essere condotta con la nuova Commissione, la Commissione Juncker, che si insedierà ai primi di novembre. A quel punto la Commissione dovrà dare un primo giudizio sulla legge di stabilità che il governo presenterà tra due settimane, ovviamente comprensiva del nuovo quadro macroeconomico che è stato definito ieri sera. La mia impressione è che difficilmente si possa invocare il rigore a senso unico quando c'è un'intera area economica che arranca, e dunque le circostanze eccezionali vanno rispettate e probabilmente ci verrà concesso più tempo per rientrare nel debito, così come è già stato concesso alla Francia peraltro. Sì. E a quel punto si dovrà aprire una trattativa per verificare se alla luce delle riforme che il governo riuscirà o non riuscirà, chissà, speriamo riuscirà a mettere in campo, se sarà possibile ottenere ulteriori margini. Quindi la trattativa è ancora totalmente aperta, molte le incognite però, perché certo, noi non rispettiamo i parametri, questo non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Grazie a Dino Pesole noi ci colleghiamo con un altro collega del Sole 24 Ore, il nostro Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. Ecco Stefano, buongiorno. Poco fa sentivamo dunque il Jobs Act, finalmente possiamo dire, è arrivato in Senato, un fronte del no interno alla sinistra che comunque resta piuttosto vivace nonostante le conclusioni della direzione del partito di un paio di giorni fa. Ecco, un fronte secondo te che a tuo parere potrebbe sbarrare la strada al Jobs Act, o Renzi ha tutta la forza per tirare avanti, per spianarli come dice lui? Beh, a parte queste espressioni che sono improprie davvero, ma io penso che sarebbe un grave errore da parte della minoranza del PD, diciamo, di in questo momento di mettere il governo sul Jobs Act, perché di questo si tratta, di mettere in crisi il governo, perché nel momento in cui dovesse passare questo testo con i voti decisivi del centrodestra, questa maggioranza non esisterebbe più. Io credo che questo pericolo sarà sventato in un modo o nell'altro, eventualmente anche con il voto di fiducia, ma io penso soprattutto che sia una questione politica su cui deve riflettere la minoranza del Partito Democratico, e non pensare che questi sommovimenti in Europa di cui parlavate adesso possano essere una sponda per rinviare le riforme che invece restano indispensabili per un paese come il nostro. Quindi io credo che il sentiero è molto stretto, ma il buon senso alla fine dovrebbe prevalere, anche da parte del Presidente del Consiglio, che non dovrebbe secondo me usare le espressioni che usa e dovrebbe invece cercare, come peraltro aveva fatto nella relazione in direzione, di offrire anche degli spiragli per un'intesa eventuale. Grazie, grazie a Stefano Folli, che ritroveremo naturalmente come sempre domani mattina alle ore 8 con il punto di Folli. Noi lasciamo per il momento invece le cose italiane, andiamo a fare un'incursione nella pagina degli esteri, perché come sapete ad Hong Kong oggi è la giornata che si annunciava molto ad alto rischio perché è festa nazionale in Cina. Allora sentiamo come stanno andando le cose, lo facciamo collegandoci con Hong Kong e con Antonio Talia. Buongiorno Antonio. Buongiorno. Dove ti trovi, allora, e com'è la situazione? Dunque, mi trovo ad Admiralty, che è uno dei tre centri della protesta. Ci sono migliaia e migliaia di persone. Come dicevi, effettivamente oggi era il giorno più a rischio, il 1° ottobre, per la festa nazionale in Cina, e effettivamente in qualche modo le promesse non sono state disattese. Per quanto la polizia si mantenga molto lontana da Admiralty, c'è stato un ultimatum. Mi trovo a pochi passi dal palco dal quale Agnes Chow Ling, che è uno dei leader del movimento Scholarism, una studentessa di 17 anni, ha lanciato l'ultimatum al governatore di Hong Kong, Tsai Ing-wen. Il movimento chiede le dimissioni del governatore entro la mezzanotte di domani, altrimenti minaccia delle nuove occupazioni di edifici pubblici. Hanno chiarito che non occuperanno edifici come ospedali o caserme dei pompieri, però contemporaneamente questa potrebbe segnare una nuova strategia, nel senso che potrebbe trattarsi di una strategia per sbaraccare i tre punti nei quali in questi giorni stanno confluendo migliaia di persone e continuare la protesta in punti diversi, quindi in punti diversi, anche meno forse identificabili, sarebbe meno facile intervenire? No, in realtà sarebbe più facile. La questione è che potrebbe essere una de-escalation della protesta, che però contemporaneamente continua a mantenere la presa sulla città stato. Grazie, grazie Antonio. Dunque, naturalmente nelle prossime edizioni di GR24, nei prossimi giorni ci racconterà e vedremo se questa de-escalation è effettiva o meno. Procedura di infrazione contro il Regno Unito, e questa è la decisione presa dalla Commissione Europea. Ne abbiamo parlato anche poco fa di altre decisioni in arrivo della Commissione Europea. In questo caso su semaforo, nelle etichette del cibo inglese, semaforo che aveva fatto molto arrabbiare gli italiani perché molti dei nostri prodotti risultavano penalizzati ingiustamente, pensiamo al parmigiano finito a essere considerato come un cibo da evitare. Secondo Bruxelles il metodo per valutare gli alimenti è una mossa discriminante. Storie di cronaca che diventano film. Arriva in sala una pellicola che ricorda un caso molto noto. La chiave sta in quell'espressione che ricorre liberamente, ispirato a. I nomi cambiano, cambiano gli ambienti, ma le storie sono quelle della cronaca. Succede in tanti film e l'ultimo è Amore e Odio, in uscita la prossima settimana, dopo essersi affacciato a qualche festival all'estero. Una piccola distribuzione per un film d'esordio. Voglio stare con te, decisi di farlo. Non voglio essere come gli altri. Tu non sei come gli altri. Nella sinossi ufficiale il regista Christian Scardigno spiega che è la storia di Katia, una ragazza 17enne soffocata dalle regole di una famiglia apprensiva e dalla monotonia di un piccolo paese di provincia. La sua voglia di incontenibile trasgressione la trascina in un vortice di immoralità e con il suo ragazzo Andrea concepisce un piano folle di estrema violenza. Di quale storia reale stiamo parlando è dunque facilissimo immaginare. Dopotutto, in un'Italia così appassionata di cronaca nera, spunti come questo portano a fare dare comunque un po' di notizia. Così sarà anche per il progetto, certo più grande, di Ignoto 1, la miniserie che Pietro Valsecchi sta producendo per Canale 5. Non la storia dell'omicidio, ma dell'indagine senza morbosità, assicurano gli sceneggiatori. Per discuterne, però, meglio aspettare di vederla. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Deficit francese al 4,4%, sopra il 3% fino al 2017. Il governo francese rifiuta di adottare nuove misure di austerità. Il ministro delle finanze Sapin dice: non chiederemo altri sforzi ai francesi. Festa nazionale in Cina e a Hong Kong, i manifestanti tengono duro. La protesta degli ombrelli oggi sotto una fitta pioggia. Ebola, confermato il primo caso fuori dall'Africa, ma le autorità sanitarie americane rassicurano: nessun pericolo epidemia. Lampedusa ricorda 368 migranti morti nel naufragio di un anno fa. Stamattina il Papa ha incontrato i sopravvissuti e i familiari delle vittime. E noi riprendiamo questa parte di Effetto Giorno parlando degli italiani che fanno sempre meno figli, anche perché forse non se li possono permettere. Di questo, ma non solo, parla il rapporto Censis diffuso oggi. E noi salutiamo Katie Vaccaro, responsabile welfare e salute del Censis e curatrice proprio del rapporto Diventare Genitori Oggi, indagine su fertilità e infertilità. Buongiorno. Buongiorno. Ho detto bene che gli italiani fanno sempre meno figli e probabilmente un ruolo lo sta giocando anche la crisi economica, insomma, tirare sui figli costa e forse molti non se lo possono permettere? Questo è quello che ci hanno detto che c'è una discrasia fra il desiderio di avere figli, che è comune alla maggioranza degli italiani, e la possibilità di averli, perché per molti la dimensione economica, nella fattispecie proprio la dimensione della crisi economica, riduce le possibilità di avere un figlio anche per chi il desiderio di farlo ce lo avrebbe. Chi sono? Giovani precari? Chi sono queste giovani coppie, insomma, che non possono fare figli, non se lo possono permettere? Diciamo che soprattutto i giovani fino a 34 anni sono quelli che hanno espresso questa maggiore distanza tra il desiderio di averlo, un figlio, e la possibilità di riuscire a realizzare questo desiderio. Peraltro il dato strutturale dimostra che quest'anno, 2013, è stato l'anno in cui c'è stato il calo delle nascite più significativo in tutta la storia del paese. Già in un solo anno meno 20.000 nuovi nati, abbiamo perso abbondantemente il recupero di natalità che avevamo avuto nel 2008, quindi c'è sicuramente un problema di crisi economica che non è però soltanto la dimensione economica in senso stretto, ma anche appunto l'incapacità, l'impossibilità, le difficoltà che le giovani generazioni hanno di pensare al futuro e quindi di dar corpo a questo desiderio che pure è molto presente nel vissuto degli italiani, che è quello, certo, di diventare genitori. Si diventa genitori meno, si diventa genitori più tardi a causa anche, come dicevamo, della crisi economica. Può essere questo anche un dato per cui si ricorre alla fecondazione eterologa, che peraltro è stata al centro anche del vostro rapporto di oggi, no? Gli italiani sono divisi su questo. Sì, sicuramente. Intanto il fatto di cominciare a pensarci tardi riduce tecnicamente, diciamo, le possibilità di realizzare e ottenere una gravidanza. Sul tema dell'infertilità gli italiani dimostrano nel 60% dei casi di saperne poco, e questo per noi è un dato preoccupante, perché saperne poco significa avere poche informazioni anche per affrontare invece un tema chiave, che è quello della prevenzione. Noi abbiamo perso l'opportunità di prevenzione indotta, diciamo, dalla visita di leva. Oggi soprattutto i maschi sanno molto poco delle possibili cause di infertilità, parlano specificamente di stress e non si rendono conto invece che ci possono essere delle problematiche ascrivibili al partner maschile che vanno affrontate precocemente, certo, per avere possibilità di efficacia nell'intervento. Ecco, a favore il 40% degli italiani, è un dato abbastanza basso, ve lo aspettavate? Beh, noi ci aspettavamo, diciamo, una maggiore difformità tra le posizioni. Noi abbiamo visto che sulla fecondazione omologa, sia essa in provetta che non, gli italiani sono nella stragrande maggioranza dei casi favorevole, e anche qui senza grosse differenze fra cattolici praticanti e non cattolici. Sull'eterologa abbiamo visto che la popolazione è divisa, circa il 40% di favorevoli, e anche qui le differenze tra cattolici e non sono poche, quindi c'è proprio una concezione dell'eterologa come necessità di ricorrere a un gameta esterno alla coppia, che è un dibattito culturale, certo, che esiste nel paese e che va ancora affrontato. Ancora affrontato. Grazie. grazie. Grazie a Katie Vaccaro del Censis. Buona giornata. Buona giornata a voi, grazie. Confermato il primo caso di Ebola diagnosticato negli Stati Uniti, si tratta di un uomo rientrato dalla Liberia. Il paziente, di cui non sono stati resi noti età ed identità, stava bene quando aveva lasciato l'Africa occidentale. I primi sintomi si sono manifestati circa 4 giorni dopo il suo arrivo negli Stati Uniti. Il virus non si diffonderà, assicurano le autorità sanitarie, ma di questo parleremo nell'ultima parte di Effetto Giorno, in particolare in America 24 con il nostro Mario Platero. È atteso per domani il voto del Parlamento turco per l'intervento militare in territorio iracheno e siriano. Violenti combattimenti intanto infuriano lungo il confine fra Siria e Turchia. Sarebbero 10.000 soldati turchi già schierati al confine con la Siria in stato di massima allerta. Oggi Ankara ha dato il via alla discussione in Parlamento per l'intervento militare anti-ISIS in territorio iracheno e siriano. Il voto è atteso per domani. Intorno a Kobane, intanto, la città curda nel nord della Siria che lo Stato Islamico sta cercando di conquistare, infuriano i combattimenti. A sostegno dei Peshmerga curdi, impegnati a difesa della città, sono entrate in azione le forze aeree della coalizione guidata dagli Stati Uniti. La conquista della città permetterebbe ai jihadisti di assicurarsi il controllo di gran parte del territorio nel nord della Siria al confine con la Turchia. Dall'inizio dell'offensiva sarebbero infatti già più di 300 i villaggi caduti nelle mani dell'ISIS, una situazione che ha già spinto 160.000 civili curdi a fuggire. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La scuola italiana è sempre più internazionale. In 3 anni sono aumentati del 50% gli studenti che provano un'esperienza di studio all'estero, che va dai 3 mesi ad 1 anno. Lo dice un rapporto di Intercultura, Ipsos e Fondazione Telecom. Ma solo 2 professori su 5 sono favorevoli. Al microfono di Adriano Palazzolo, il vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Mario Rusconi. Polibio, il famoso storico greco, parlava sempre di prophasis eitia, intendeva dire che quando scoppiava una guerra c'era una ragione apparente e una ragione di fondo. Apparente è che i programmi che si svolgono, diciamo, all'estero difficilmente corrispondono con i programmi italiani, nel senso che un ragazzo che va negli Stati Uniti magari fa il liceo scientifico, fa sì matematica, fa sì fisica, ma magari non fa latino. La causa di fondo è che gli insegnanti italiani sono poco attenti alla dimensione, direi, europea e mondiale della formazione. Sono troppo legati, diciamo così, allo stretto specifico della loro materia, e questo deriva anche dal fatto che dal 1997 gli insegnanti italiani non hanno più avuto un briciolo di formazione da parte del Ministero dell'Istruzione, perché i sindacati, nello scrivere i contratti collettivi nazionali di lavoro, hanno fatto togliere l'obbligo della formazione agli insegnanti. Costa Concordia, Dominica Rivela, un ufficiale mi disse che era stato prelevato un oggetto dalla nave e portato sull'elicottero inviato dalla compagnia sull'isola del Giglio. La donna, al fianco di Schettino la notte del naufragio, continua a fornire dettagli sugli eventi successivi al disastro, raccontando di essere stata anche convocata da Costa Crociere. Gli avvocati della compagnia volevano essere sicuri di cosa avessi visto, dice Dominica. Guidava a 140 all'ora ubriaco, arrestato il nuotatore Michael Phelps, in forse ora la partecipazione alle Olimpiadi di Rio 2016. Questo invece è il calcio, un grande Totti, Carlo Genta qui accanto a me per parlare di calcio naturalmente, un grande Totti quello che abbiamo visto ieri di sera. Di Phelps non parliamo? Di Phelps che dobbiamo dire? Mi sembra tanto dire in forse la partecipazione alle Olimpiadi 2016, Phelps non è la prima volta che diciamo casca in qualche vizio, ma resta sempre, si era ritirato, resta sempre il principe dei nuotatori, vedremo. Sì, diciamo appunto come, insomma, la sua partecipazione è più che in forse, sì. E invece per il calcio dicevamo ieri di come è andata, raccontaci tutto, io non l'ho vista la partita, calcio, lo sai. Per il calcio è andata molto bene, nel senso che o meglio, addirittura la Roma torna dalla casa dei campioni d'Inghilterra, da Manchester, dalla casa del Manchester City con qualche rimpianto, perché ha giocato una grande partita. Perché Totti a 38 anni è diventato il più anziano giocatore a segnare un gol in Champions League, anche questo è un primato, perché ha giocato comunque molto bene dopo essere passati in svantaggio per un rigore di Agüero, e perché mantiene assolutamente vive le sue speranze di qualificazione in quello che è il girone più difficile della Champions League intera. Questa sera c'è la Juventus che ha un'altra partita cartina al tornasole, gioca sul campo dei vice campioni d'Europa e campioni di Spagna dell'Atletico Madrid, partite importantissime anche per capire la dimensione e la misura della Juventus e della sua condizione attuale, senza dimenticare che domenica nel tardo pomeriggio Juventus e Roma si troveranno una di fronte all'altra, le due più forti squadre italiane, quindi una settimana davvero interessante per il calcio. Approfitto della tua presenza ai nostri microfoni, al di fuori di tutti i convocati, sì, naturalmente. Come la vedi tu la decisione di imporre una tassa sui diritti TV per pagare la polizia? Io la vedo che i presidenti, ovviamente già il presidente della Lega Beretta di tutti, ha detto non siamo d'accordo, 1-3% la percentuale prevista da questo decreto, si va in aula il 21, è chiaro che le società di calcio già dicono noi paghiamo gli steward, abbiamo le nostre spese, non venite a toccarci nelle casse che già non sono floridissime. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Deficit francese al 4,4%, sopra il 3% fino al 2017. Il governo francese rifiuta di adottare nuove misure di austerità. Il ministro delle finanze Sapin dice non chiederemo altri sforzi ai francesi. Festa nazionale in Cina e ad Hong Kong. I manifestanti tengono duro la protesta degli ombrelli oggi sotto una fitta pioggia. Lampedusa ricorda i 368 migranti morti nel naufragio di un anno fa. Stamattina il Papa ha incontrato i sopravvissuti e familiari delle vittime. Scuola italiana sempre più internazionale, aumentano i ragazzi che studiano per un periodo all'estero, ma 2 insegnanti su 5 sono contrari. Ed ora noi ci colleghiamo invece con la redazione di Radio Cor per sentire come stanno andando oggi le borse. Ci colleghiamo con Eleonora Micheli, buongiorno. Buongiorno. Borse volatili questa mattina. Borse volatili e borse europee che procedono in ordine sparso. Se Milano perde lo 0,25%, la Francia, Parigi perde lo 0,48%, va un po' meglio Francoforte che in questo momento oscilla attorno alla parità. Male anche Londra che perde mezzo punto percentuale, anche Madrid invece è in lieve rialzo dello 0,08%. Sì, ecco, dunque i dati che sono arrivati questa mattina dalla Francia hanno influito? Hanno influito più che altro sulla borsa di Parigi, poi c'è grande volatilità e nervosismo soprattutto nell'attesa della decisione che domani prenderà la Banca Centrale Europea, soprattutto alla luce del fatto che ieri è stato indicato che l'inflazione della zona euro si è attestata solamente allo 0,3%. Grazie ad Eleonora Micheli di Radio Cor. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Stamattina l'incontro fra il Papa e un gruppo di migranti sopravvissuti al naufragio di un anno fa a Lampedusa. Da oggi iniziano le commemorazioni sull'isola. Qui accanto a me Valentina Furlanetto. Sì, buongiorno Piera, buongiorno agli ascoltatori. Come dicevi, iniziano le commemorazioni in questi giorni che si culmineranno il 3 di ottobre, il giorno del naufragio in cui morirono, lo ricorderete, 368 vittime. E il 2014 tra l'altro è stato un anno terribile da questo punto di vista. Sono 2.500 le vittime del mare secondo dati ONU, addirittura 3.072 secondo l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, il doppio del 2013. E si avvia proprio in questi giorni ad esserci un po' una passerella, quella che si teme possa diventare una sfilata di politici proprio sull'isola Lampedusa, dove che è proprio stata protagonista suo malgrado di questo naufragio. Ed è stato protagonista e testimone anche un soccorritore, si tratta di Vito Fiorino, è un pescatore così per piacere che la notte del naufragio dormiva in rada, è stato lui il primo a sentire le grida dei profughi che sono finiti in acqua, allora sentiamolo. Sono quello che ha dato l'allarme alla capitaneria di porto alle 6:30 di mattina, eravamo fuori in mare con questi amici di notte e la mattina abbiamo poi assistito e sentito queste urla, queste grida e abbiamo iniziato il recupero delle persone. Una notte terribile, l'ha cambiata questa esperienza? Parecchio, le istituzioni che ci hanno veramente ignorato, ci sono passati sopra come se fossimo noi anche persone morte con loro. Quindi lei non andrà alle manifestazioni? Ma io non andrò assolutamente. Ma quale merito ha questa donna per creare questa manifestazione? Che non ha fatto nulla quando 1.200 persone al centro dormivano sotto l'acqua. ma perché non hanno aperto le scuole, ma perché non hanno aperto la sede del comune, perché 30 euro o 25 euro al giorno per 1200 persone sono soldi. Lei sta parlando dei soldi che arrivano al centro d'accoglienza? Certo, certo. La donna di cui parlava questo testimone, soccorritore Vito Fiorino, è il sindaco cui faceva riferimento, al sindaco di Lampedusa Giusy Nicolini, che sarà insieme alle altre autorità a Lampedusa durante queste commemorazioni. È annunciata la presenza del ministro dell'interno Angelino Alfano, ma anche del ministro degli esteri Federica Mogherini, nonché della presidente della Camera Laura Boldrini e di Martin Schulz, quindi un po' anche un pezzo d'Europa anche a Lampedusa. Tra l'altro, proprio oggi la gestione del centro di primo soccorso e accoglienza dell'isola, che lo ricorderete era stato al centro di alcune polemiche per questo immagini, questo video che ritraeva migranti lavati con un idrante, che venivano così disinfettati con un idrante, era stato chiuso il centro, e da oggi proprio passa alle Misericordie, che gestiscono anche altri centri in Italia, tra cui quello di Isola Capo Rizzuto, uno dei più grandi d'Europa, addirittura al centro anche di qualche polemica, mentre il consorzio Sisifo, quello invece colpevole, diciamo, di aver gettato il disinfettante con gli idranti ai migranti, gestisce altri centri ancora in Italia, quello di Foggia, quello di Cagliari ad esempio. Quindi insomma, polemiche anche intorno sia ai centri, ancora al trattamento all'interno dei centri, e anche intorno alle commemorazioni per queste vittime. E naturalmente ci torneremo, perché stai partendo per Lampedusa anche tu, quindi insomma sì. Nei prossimi giorni ci racconterai questa verità, insomma, e quest'isola che tenta di riprendersi un anno dopo il naufragio. Grazie a Valentina Furlanetto. Non vi fu alcuna gratuita violenza ai danni di Michele Ferrulli, il manovale morto per arresto cardiaco nel 2011 mentre gli agenti lo stavano ammanettando a terra. Non ci furono violenze gratuite ai danni di Michele Ferrulli. A scriverlo sono i giudici della Corte d'Assise di Milano nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 3 luglio hanno assolto, perché il fatto non sussiste, i 4 poliziotti finiti a processo per la morte del manovale, stroncato da un arresto cardiaco mentre gli agenti stavano cercando di ammanettarlo. Per loro l'accusa aveva chiesto una condanna a 7 anni per omicidio preterintenzionale. Secondo i giudici, invece, la sera del 30 giugno 2011 gli agenti, intervenuti dopo una segnalazione per schiamazzi notturni, agirono in modo corretto nel tentativo di fermare Ferrulli. L'uomo soffriva di ipertensione, prima dell'arresto aveva bevuto molto e sarebbe morto per un arresto cardiaco causato da una tempesta emotiva, ha stabilito una perizia medica. I colpi sferrati dai poliziotti sarebbero stati necessari per vincere la sua resistenza, e la condotta dei 4 si sarebbe mantenuta entro i limiti imposti da tale necessità, scrivono i giudici, che per questo hanno deciso di assolverli. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il Veneto renderà operativo da lunedì il conto corrente sul quale fare affluire versamenti per il finanziamento del referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto. Siamo collegati con il governatore del Veneto, Luca Zaia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, ieri è un commento suo, cito un virgolettato: come in Scozia prende il via una grande pagina di democrazia. In Scozia però non è andata proprio benissimo. Il fatto che vada bene o male non inficia l'aspetto che è quello della sublimazione della democrazia. In Scozia si è scritta una grande pagina, si sono sentiti i cittadini rispetto al tema dell'indipendenza, ed è esattamente il mandato che io ho avuto dal Consiglio regionale, che ha varato 2 leggi per 2 referendum, che sono 2 leggi, una per il referendum per l'autonomia e l'altra per l'indipendenza. Oggi noi chiediamo di poter celebrare questo referendum, che sarà un referendum, come dice bene lei, consultivo. Mm. Che Veneto vede all'indomani di questo referendum, insomma, da come potrebbe andare? Ma guardi, la Costituzione repubblicana scritta dai padri costituenti del 48 era ed è autenticamente federalista. La gestione centralista ha disgregato il rapporto che il Veneto ha con Roma. Noi siamo una delle 4 regioni che ha un residuo fiscale attivo, ovvero 21 miliardi di tasse all'anno restano a Roma, tasse dei veneti. Non abbiamo risposte da Roma, vediamo le nostre imprese chiudere, non siamo nelle condizioni di rispondere ad esempio ai tanti bisogni delle nostre imprese, dei nostri lavoratori. Abbiamo avuto oltre 100 imprenditori che si sono suicidati all'interno delle loro imprese. Ecco, un viaggio che vuole essere, cito sempre parole sue di ieri, che vuole essere costituzionale, legittimo e giuridicamente inattaccabile. Questo per rispondere anche forse a spinte di altro genere. Ma direi, dice bene questo, ma dice, voglio anche significare che le cose o si fanno seriamente o si fanno per bene, rispettando la legge, rispettando le regole della democrazia, oppure non hanno nessun significato. La Scozia ci ha dimostrato con il suo referendum che è riuscita ad avere un referendum regolare, legale e legittimo. Io spero che anche la Catalogna riesca a dimostrare in egual misura la legalità di questo referendum in maniera tale che poi anche il Veneto lo possa celebrare. Mm. Come periodo, come data, cosa le piacerebbe come tempistica? Guardi, la legge referendaria del Veneto, noi abbiamo approvato una legge referendaria mesi fa e quindi molto prima della Catalogna, che è stata impugnata dal governo, e prevede che prima bisogna raccogliere 14 milioni di euro, per questo l'annuncio che da lunedì è operativo il conto corrente e quindi non sarà la spesa a carico delle casse pubbliche. Dopodiché, quando avremo i 14 milioni, si indirà una data per il referendum. E io spero che lo si possa celebrare entro fine 2015. Zaia, 14 milioni non sono pochi, ce la farete? Ma spero proprio di sì. Dove andate a pescare? Ma sono tutte, come si definiscono, erogazioni liberali, cioè ovvero sono donazioni di privati cittadini, di imprenditori, di tutti coloro che vogliono comunque che i veneti possano esprimersi. È un referendum consultivo, quindi non c'è nulla di sovversivo se non quello di capire cosa pensano i veneti rispetto agli indipendenti. Grazie al governatore del Veneto Luca Zaia. Noi ci fermiamo per qualche istante, sentiamo le informazioni sul traffico. Ed è tutto anche per Effetto Giorno, grazie in regia Fabio Cantadori, in redazione Laura Fagin, un saluto da Maria Piera Ceci.